Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ballottaggi per le comunali di Berna, confermato sindaco a Gorizia, il centrodestra vince anche ad Azzano Decimo con Piccini, Codroipo al centrosinistra con Nardini. Le voci dei protagonisti di una tornata snobbata dagli elettori, in regione alle urne solo il 43% degli aventi diritto. Le giornate calde del turismo, il tempo stabile, riempie le località di vacanza, le città d'arte, Pionone in montagna, a Trieste la visita dei tour operator internazionali. Covid, 910 nuovi casi, tasso di positività quasi al 23%, tornano a salire i ricoveri in ospedale. Quando Grado divenne per l'impero la località di riferimento per mare e sole, 130 anni dopo, una festa in costume. Sport, canoa, il San Giorgino Federico Zanutta vince l'oro agli europei juniores, da Belgrado anche due argenti e un bronzo per i regionali, nel canottaggio pioggia di titoli dai campionati italiani di Piediluco. Atletica leggera, Rieti conferma Mandusic e Di Lazzaro, i triestini sono i più forti nell'aste sui 100 ostacoli. Lunedì 27 giugno, sono le 7:19 minuti, come di consueto apriamo prima di un'ampia pagina elettorale con uno sguardo alla situazione del tempo. Cielo in prevalenza sereno sul Friuli Venezia Giulia, le temperature registrate alle 6, Trieste 23 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi, a Pordenone 21, a Udine 20 gradi e 5 decimi, a Gorizia 18 e 5. Nell'area montana a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio 17, a Sappada 13, 16 gradi a Forni di Sopra, sul Piancavallo 13,5, sullo Zoncolan 14, sull'Ussari 13,5, tornando sulla costa a Lignano 25, a Grado 22,5, con temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per oggi il cielo sarà sereno e farà caldo, specie in pianura di pomeriggio. Sulla costa la brezza mitigherà la calura pomeridiana, ma le minime notturne saranno relativamente alte e piuttosto caldo anche in montagna. Partiamo dunque con un'ampia pagina elettorale e i risultati dei ballottaggi nei tre comuni in cui ieri gli elettori erano chiamati nuovamente al voto. Rodolfo Ziberna si conferma sindaco di Gorizia ottenendo il 52,2% delle preferenze, superando Laura Fasiolo per più di 500 voti. Centrodestra premiato anche ad Azzano Decimo, dove vince Massimo Piccini con oltre il 60% dei consensi, battuto Enrico Guin, e cambia colore anche il municipio di Codroipo con il successo del centrosinistra con Guido Nardini, quasi 20 punti di vantaggio su Gianluca Mauro. Per quanto riguarda l'affluenza, è stato un altro flop. Ieri in regione ha votato nel complesso meno del 43% degli aventi diritto, con un calo di quasi 9 punti rispetto al primo turno. Ma ora scendiamo nel dettaglio con Lorenzo Gerlinzoni. Sì, come dicevamo, Gorizia non cambia, sarà ancora Rodolfo Ziberna del centrodestra a guidare la città per un secondo mandato con il 52,2% dei voti, pari a 6.372 preferenze. A sostenerlo sono stati la Lega, Noi con l'Italia, lista Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Affluenza bassa ma in linea con le aspettative alle urne. Al secondo turno si sono recati circa 42 cittadini su 100. Sarò il sindaco di tutti, c'è tanto lavoro da fare, ha assicurato Ziberna già ieri sera quando è apparsa chiara la riconferma al governo del capoluogo isontino. Quello che io sostengo in campagna elettorale, cioè che i prossimi 5 anni saranno gli anni più importanti negli ultimi 20 per la nostra città e probabilmente per i prossimi 20, io ritengo che la città di Gorizia non appartenga né al sindaco né alla giunta e neanche alla maggioranza di 25 consiglieri su 40. Ecco il motivo per cui io già dai prossimi giorni mi incontrerò con le diverse anime della minoranza proprio per vedere come poter costruire insieme i prossimi 5 anni nel rispetto del nostro programma, capire su quali parti del nostro programma possiamo trovare una convergenza. Io credo perché Gorizia, la città, abbia bisogno della più ampia sensibilità possibile. Una performance importante quella della sfidante Laura Fasiolo, anche se nel centro-sinistra c'è ovviamente delusione per la vittoria sfumata. Non è bastato l'appoggio di un campo largo di centro-sinistra praticamente al completo: PD, 5 Stelle, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, Noi, Altris, Go e la lista Fasiolo. Ne è stato sufficiente il sostegno esplicito, sia pure senza apparentamenti, di Antonio De Vettag, sconfitto già al primo turno. Complessivamente Fasiolo ha raccolto 5.827 preferenze, pari al 47,8% dei suffragi. Nonostante la nostra grossa salita che ha colmato buona parte del gap, non ce l'abbiamo fatta perché evidentemente c'è stata una difficoltà di agganciare quella parte del potenziale elettorato che veniva da un gruppo di centro. Quello che è stato appunto il problema è questa neutralità e non schieramento e libertà di scelta data a questo terzo polo. E quindi il Consiglio Comunale, dopo questa seconda tornata elettorale a Gorizia, risulta così composto. La coalizione di Rodolfo Ziberna ha raccolto 24 seggi su 40, la coalizione di centro-sinistra che sosteneva Laura Fasiolo avrà 10 seggi in Consiglio Comunale, 2 seggi il centrista Pierpaolo Martina. Rimangono invece fuori dal Consiglio Comunale i candidati di Franco Zotti, di Antonio Devetag, di Serenella Ferrari e di Mario De Marco. Cambia colore invece il municipio di Codroipo, che passa dal centrodestra alla centrosinistra. Il nuovo sindaco è Guido Nardini, sostenuto da PD e lista Nardini Sindaco, che ha raccolto 3.576 voti, pari al 58,9% dei consensi, a fronte anche in questo caso di un'affluenza che si è fermata al 42% del corpo elettorale. Esce sconfitto il centrodestra, che aveva governato negli ultimi due mandati con Fabio Marchetti. Il candidato di Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia, Progetto FVG e Codroipo al Centro, Gianluca Mauro, raccoglie 2.498 voti, pari al 41,1%, e manca così l'elezione. Sentiamo il commento del nuovo sindaco Nardini, il cui successo arriva proprio oggi, nel giorno in cui tutta la città di Codroipo si ferma per le esequie di Elisabetta Molaro, la quarantenne uccisa pochi giorni fa dal marito. Sono felice, anzi più che felice, perché non mi aspettavo un risultato così evidente. L'affluenza purtroppo è stata molto bassa e questo ci imporrà di ragionare insieme a tutti i cittadini di Codroipo per riportarli a far parte di un'analisi più accurata di quella che è la vita politica codroipese. Eviterei di fare ulteriori commenti se non ringraziare la mia squadra, ringraziare i cittadini di Codroipo che mi hanno dato fiducia e fermare i festeggiamenti, perché oggi è il giorno dell'addio a una nostra concittadina. Cambia colore anche il comune di Azzano Decimo, ma in questo caso si passa dal centro-sinistra al centro-destra. Qui il nuovo sindaco è Massimo Piccini, che ha ottenuto il 60,1% dei consensi, in termini assoluti 3.971 voti. Una vittoria in barba alle divisioni del suo campo politico. Il centro-destra aveva infatti presentato al primo turno due candidati diversi, appunto Piccini con Fratelli d'Italia e la civica Azzano 33082 e Bortolus, sconfitto già lo scorso 12 giugno col resto del centrodestra e che almeno sul piano formale non aveva fatto apparentamenti in vista del ballottaggio. Ma sentiamo Piccini. Sono felicissimo del risultato conseguito. Abbiamo lottato come leoni contro tutto e contro tutti in questi giorni, soprattutto nell'ultimo periodo, e ci siamo riusciti. La gente ha avuto fiducia in noi, siamo veramente contenti di metterci a disposizione della comunità azzanese. Abbiamo ascoltato tante persone in questo periodo, tante associazioni, tante società sportive, e a loro sarà dedicata la nostra attenzione. Quindi ad Azzano Decimo le divisioni in casa della centrodestra non sono bastate a Enrico Guin per vincere. Peraltro lo stesso centrosinistra era arrivato diviso al voto nel comune del Pordenonese. Guin, che era appoggiato da PD e i cittadini Azzano Insieme, si è fermato al 38,8% dei voti, pari a 2.523. Sentiamo una dichiarazione proprio di Guin dopo la sconfitta. L'esito non è stato quello che auspicavamo. È giusto che chi prende una percentuale nettamente superiore alla nostra ministri, governi e dimostri di essere in grado di gestire 16.000 abitanti e soprattutto di gestire un comune che è un comune importante, un comune capofila, che ha in prospettiva tantissime opere pubbliche, tantissimi cantieri e tantissime progettualità già avviate da questa amministrazione. Dunque chiudiamo questa ampia pagina elettorale, per la quale ringraziamo Lorenzo Gerlinzoni e Andrea Vardanega. Naturalmente riapriremo questa pagina nella prossima edizione, quella delle 12.30. Adesso passiamo invece al tema del turismo. Il bel tempo di questi giorni ha fatto buon gioco agli operatori, che hanno fatto registrare un'alta affluenza in tutta la regione. Delle varie possibilità di sviluppo della ricettività del territorio si è parlato in particolare a Trieste nel corso della Borsa del Turismo del Friuli Venezia Giulia, alla quale hanno partecipato addetti ai lavori da 20 paesi. Sentiamo. Ritornare ai livelli pre-Covid e aumentare l'offerta turistica per convincere ancora più visitatori a venire, o ancora meglio a tornare in regione. Durante la 4 giorni della Borsa del Turismo del Friuli Venezia Giulia, i professionisti del settore interessati a prenotare pacchetti da rivendere alle agenzie viaggio e ai clienti singoli sono arrivati da 20 paesi. Nel corso del weekend hanno scoperto il territorio con itinerari tematici che vanno dai grandi classici, montagna, mare, Trieste e enogastronomia, allo sport all'aperto e ai percorsi benessere, per un totale di 11.000 mini tour. I turisti del futuro, grazie a iniziative come queste, scopriranno anche nicchie inesplorate. Dagmar Püringer, operatrice turistica Austria. E ultimamente ho scoperto un giro in barca da Marano Lagunare all'Aquileia e da Grado, e questo cerco di magari inserire anche nei prossimi anni in più. Nei prossimi anni si potrebbero vedere più turisti americani. Brenda Smith, operatrice turistica Stati Uniti. Per me è la prima volta che vengo qua, però vedo una diversità straordinaria. Per esempio, siamo stati a Udine, Cividale, Palma Nova e adesso Trieste, che non ho ancora vista, però la diversità è incredibile. C'è i siti UNESCO e la posizione che è vicino a un altro paese. E anche vicino a Venezia. E anche molto importante che è vicino a Venezia, perché noi abbiamo tantissimi viaggi Venezia, Firenze, Roma, ma qui c'è un po' in più. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche in montagna si è registrato bel tempo stabile nel fine settimana, e sul Tarvisio il cicloturismo è sempre più trainante, mentre sul Lussari la mancanza di nubi è stata ideale per la riapertura della telecabina, che sarà accessibile fino a metà settembre. Mare? Mare è troppo caldo. L'hai fatta presto per evitare il gran caldo? Sì. Tutta molto bella, tutta bella fresca, molto bello. In attesa del grande afflusso di austriaci, attesi tradizionalmente da metà luglio, è la bicicletta uno dei grandi motori del turismo a Tarvisio. Nell'area c'è ottimismo per la stagione estiva, tanto che, dopo 7 anni di chiusura, ha riaperto uno storico albergo del centro. Sostanzialmente il lavoro è fondato sulla ciclovia Alpe Adria, per la tappa di una notte o due notti in questo momento. Sul commercio pesa l'incertezza. Le persone tendono a spendere meno, ci dicono, soprattutto in settori come l'abbigliamento, non di prima necessità. Forse è considerato più di prima necessità farsi un bel giro per rilassarsi piuttosto che comprarsi un vestito in questo momento. Questo sicuramente. La gente che passeggia in paese è vestita in maniera tecnica, da montagna, quindi si deduce che va a farsi la passeggiata. Da questo weekend la telecabina del Lussari è aperta tutti i giorni fino al 18 settembre. Il prologo già lo scorso fine settimana. 1.000 al giorno le utenze, circa 200 in più rispetto allo stesso periodo prepandemico. Siamo già venuti in passato e volevamo tornare a vederlo. Non tutti cercano necessariamente refrigerio. Vado a messa. C'è un scenario incredibile, cose che non lo vediamo a Malta sicuro, è una piccola isola. Sulla telecabina c'erano anche i genitori di Alessandra Valusso, scomparsa a 13 anni per un linfoma. Arrivati in cima, la sorpresa che le ha fatti commuovere. Gli amici hanno posto qui una panchina in ricordo di Alessandra, organizzando una raccolta fondi per il reparto pediatria dell'ospedale di Udine. Ed era giusto che nel suo posto preferito ci fosse questo, ed è un regalo grande. Tarvisio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a proposito di montagna, in Consiglio regionale la seconda commissione ascolterà stamani dalla Giunta l'illustrazione del disegno di legge sulla sicurezza degli impianti di risalita sciistici e nelle discipline sportive invernali. La nuova norma riguarda tra l'altro gli impianti a fune, le aree sciabili attrezzate e le piste destinate alla pratica degli sport della neve. Subito dopo l'argomento sarà approfondito con i principali portatori di interesse, a cominciare da comuni, comunità montane, consorzi turistici. L'esame del disegno di legge non avverrà prima di giovedì 30, quando la seconda commissione tornerà a riunirsi. Non c'è pace nel tormentato settore della sanità. Comincia la settimana di mobilitazione nazionale indetta dall'USB Pubblico Impiego, che chiede condizioni di lavoro che riportino al centro il diritto alla salute di tutti. Il comparto salute del sindacato scende in piazza in regione per rivendicare risorse a integrazione degli organici e investimenti per la riapertura dei presidi sanitari pubblici. A Trieste, in piazza Unità, dalle 11 si terrà un'iniziativa del sindacato che illustrerà anche alla stampa le proprie richieste. Tra le sfide odierne dell'agricoltura rientrano l'aumento di produzione e qualità, oltre alla riduzione dell'impatto ambientale e dei costi. Tutti obiettivi raggiungibili con il ricorso alla tecnologia 4.0, che usa sensori, automazioni e modelli previsionali in un'ottica di competitività di mercato. I temi saranno al centro del seminario online intitolato «La quarta rivoluzione industriale applicata all'agricoltura, stato dell'arte ed opportunità», che è stato organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia ed è previsto alle 11 ed è accessibile tramite iscrizione al portale camerale. Tra i relatori Davide Buzzinelli, presidente Consorzio Tutela Vini del Coglio, a cui abbiamo chiesto quali sono i vantaggi del ricorso all'agricoltura 4.0 in un periodo come quello attuale, caratterizzato dalla siccità. Il vantaggio dell'agricoltura 4.0 è quello di entrare nell'uso più razionale di qualsiasi prodotto, che sia concime, che siano fitofarmaci o che sia acqua. Assolutamente il controllo di gestione delle acque in un momento del genere dà sicuramente una mano. Il problema del nostro territorio è che l'agricoltura 4.0 sicuramente si esprime molto meglio in zone agricole molto intensive, cosa che il nostro territorio non lo è. Perciò abbiamo qualche piccolo problema a svilupparlo maggiormente, ma sicuramente ci dà una grossa mano in qualsiasi reparto, sia nella gestione dell'acqua come nella gestione di qualsiasi lavorazione che facciamo. Ma nella pratica come si esprime? Sono dei collegamenti tramite computer dove ti danno i dati di quanta acqua è stata distribuita nel tuo vigneto, ti gestisce l'irrogazione, ti permette di vedere se ci sono meno problemi e perciò non vai a dare più acqua di quanto serve, non hai perdite, si dosa veramente alla goccia il prodotto, che sia acqua o che sia qualsiasi cosa. Siamo ai dati sulla pandemia, sono 910 nuovi casi di coronavirus evidenziati in regione dall'ultimo bollettino. Sono stati eseguiti poco più di 4.000 tamponi, il tasso di positività sfiora il 23%. Due decessi registrati entrambi a Trieste, in terapia intensiva sono ricoverate 8 persone, negli altri reparti i pazienti sono 148, 12 in più rispetto alla rilevazione precedente. Che aria abbiamo respirato nel 2021 in Friuli Venezia Giulia? Un'aria sostanzialmente di buona qualità per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti monitorati. C'è qualche criticità per l'ozono e per il benzo a pirene nelle aree della regione in cui per scaldare le case si impiega soprattutto la legna. Le anticipazioni sono state fornite dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che questa mattina presenterà a Trieste l'ultima relazione sulla qualità dell'aria. Nel rapporto sul 2020 si erano segnalati in modo negativo gli sforamenti delle polveri sottili nel Pordenonese, oggi costituiscono un problema meno pressante. L'Università di Udine conferirà oggi la laurea honoris causa in ingegneria gestionale a Giuseppe Iogna, originario di Forgaria del Friuli e già presidente per quasi 20 anni dei periti industriali italiani. La cerimonia è prevista nell'aula Marzio Strassoldo del Polo di Via Tomadini alle 11. Dopo l'introduzione di Alberto De Toni, già rettore dell'Ateneo Friulano, che terrà la Laudatio di Iogna intitolata «La tempra di un uomo progettista e costruttore del futuro», Iogna terrà la Lectio Magistralis intitolata «Si apre una porta per il futuro dei tecnici», con riflessioni sulle lauree ad orientamento professionale inquadrate dal decreto ministeriale del 2020. Ecco un'anticipazione della Lectio. Le statistiche che parlano ovviamente di tecnici dell'ingegneria, soprattutto dell'architettura, ci mettono in coda nelle statistiche perché dicono che il nostro paese ha meno laureati e soprattutto i giovani arrivano al lavoro più tardi di quelli degli altri paesi industrializzati e non sono della comunità europea. Ecco allora che vengono in soccorso proprio le lauree professionalizzanti, perché in questo momento il laureato italiano, anche solo triennale, arriva a 21 anni e mezzo, che appunto nei paesi industrializzati è il termine per entrare nel mondo del lavoro o della libera professione. Da noi invece, per iscriversi all'albo, è necessario da quel momento in poi fare un esame abilitante e soprattutto per alcune professioni, tra cui la nostra, fare anche un tirocinio che dura circa 2 anni. Tra tirocinio e poi l'esame di Stato, che viene fissato una volta l'anno, chiaramente i nostri arrivano al lavoro almeno un paio d'anni dopo gli altri. E dunque a livello di statistica dobbiamo correggere il tiro. Ed è qui è venuta la soluzione, ecco allora che anche in Italia sono entrate in vigore le lauree professionalizzanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'esame di Stato finale scolastico deve diventare anche abilitante. È abilitante nel senso che durante il corso di studi, se fatto eventualmente il tirocinio laddove è obbligatorio, ma si portiamo anche i nostri giovani comunque ad essere pronti per il mondo del lavoro circa 21, massimo 22 anni. Oggi a Trieste l'Open Day dell'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi, che include una visita guidata al Giardino dei Sensi nell'istituto. Tutto ciò comincerà alle 17 nella sede di Viale Miramare. Si intitola Itur in antiquam silvam, ricezione e tradizione dall'antico, il convegno internazionale di 2 giorni organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Nel corso dell'evento si presenteranno casi di ricezione dell'antico in ambiti di studio diversi, che possono coinvolgere sia specialisti, sia studenti e docenti di scuola secondaria. L'iniziativa è prevista a Trieste, alla Biblioteca Statale Stelio Crise, dalle 15.15 e sarà accessibile anche dalla piattaforma Teams con link pubblicato sul sito cetra.units.it. Grado prosegue nelle celebrazioni dai 130 anni dalla proclamazione della località stazione di cura e soggiorno dell'impero asburgico. Sentiamo questo servizio. Pizzi, Jacquard, Taffetà, la moda Belle Époque torna a sfilare a Grado per i 130 anni della stazione balneocurativa. Immancabile il passaggio alle Ville Bianchi, dove soggiornò lo stesso imperatore Francesco Giuseppe. A creare questa favola in costume l'infaticabile regista Luisa Venier, che ha voluto tra le sue indossatrici Alexandra Torgoska, profuga ucraina giunta da pochi giorni sull'isola. Дуже пощастило, що я зараз тут. Sono molto fortunata ad essere qui. Facendomi sfilare, Luisa e tutta Grado mi aiutano a non morire di quella tristezza che mi assale quando penso alla mia casa e alla mia vita devastate dalla guerra. Vorrei sfilare così in abito da sera dove oggi sfilano i carri armati. Straordinario incrocio con la foto d'epoca di Viale Europa, che testimonia la fedeltà stilistica degli abbigliamenti, così come l'ultimo libro scritto dalla memoria storica gradese Antonio Boemo. In campo Patriarca Elia, fino a martedì 28 giugno, ogni sera dal tramonto a notte fonda, spettacolare proiezione di videomapping architetturale. La Basilica di Santa Eufemia diventa schermo ultrapanoramico per la visual performance di Sara Cagliumi, un flusso di luce a ripercorrere la storia e l'arte di Grado. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il cinema può essere politicamente utile, può causare sconvolgimento sociale oppure può solo introdurre nuove abitudini, nuove mode, nuove ossessioni? Sono queste le domande poste dal documentario intitolato La cinepresa non è una bomba Molotov, considerato perduto e ora ritrovato da Cinema Zero e restaurato con la Cineteca di Bologna, partendo dalla copia da 16 mm conservata dalla Cineteca dei Friuli. L'opera sarà presentata oggi a Bologna all'Auditorio Dams Lab nell'ambito della 36esima edizione del festival Il Cinema Ritrovato. Protagonista dell'opera Damiano Damiani, regista di Pasiano di Pordenone. A seguire, sempre a Bologna, verrà proiettato Il Carso di Franco Giraldi, affresco sulla terra d'origine del regista sloveno, ritrovata e restaurato da Cinema Zero. Sono le storie che ci raccontiamo parlando a tavola con parenti e amici, magari sempre le stesse, ma si sa, la gente di mare cambia, inventa, toglie, aggiunge quello che non ricorda, cose sentite e rielaborate, forse di fantasia, forse realmente accadute. Ed è il tipo di storie che troviamo in Da Trieste a Ernest, Racconti in scatola, l'ultimo libro del triestino Dino Faraguna, che sarà presentato alle 18 al Caffè San Marco. A Trieste partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del Palasport di Chiarbola. Li illustrerà questa mattina l'assessore ai lavori pubblici, Elisa Lodi, in una conferenza stampa presso l'impianto. Sono previsti il rifacimento degli spogliatoi e la nuova impermeabilizzazione del tetto, lavori per i quali poco meno di un anno fa erano stati stanziati 650.000 euro. Mezzo milione si spenderà solo per il tetto, che da tempo presenta gravi problemi di infiltrazioni. Nel Palasport di Chiarbola, intitolato al lottatore Giorgio Calza, svolgono l'attività una dozzina di società sportive, tra le quali la Pallamano Trieste. Notizia questa che ci ha introdotto alla pagina sportiva, che apriamo alle 7:44 minuti con la canoa ai campionati europei juniores e under 23 di Belgrado. Straordinaria la doppia impresa di Federico Zanutta della Canoa San Giorgio, che ha vinto l'oro nel K2 sui 1000 metri e l'argento sui 500 metri, sempre in coppia con Luca Micotti della polisportiva Verbano. Nella gara che è valsa il titolo continentale, la coppia azzurra ha preceduto Ungheria e Repubblica Ceca. L'Italia non vinceva in questa specialità agli europei juniores da 13 anni. Da Belgrado arrivano altre due medaglie per i colori regionali: l'argento della gradese Irene Bellan nel K1 under 23 sulla distanza dei 200 metri e il bronzo per la monfalconese Giada Rossetti della Timavo nel K2 500 metri in coppia con la livornese Del Gratta. Commenteremo questi risultati fra pochissimo, ma prima i risultati dei campionati italiani giovanili di canottaggio che si sono svolti a Piediluco. Le società remiere della regione hanno conquistato 5 titoli italiani, 2 argenti e 4 bronzi. 3 scudetti sono andati alla Saturnia, che ha vinto tra le under nel 4 con Secoli, Gregorutti, Pahor, Dorci e Wiesenfeld. Nel 2 senza, pesi leggeri con Premeri e Zerboni, e nell'8 con, equipaggio formato da Pahor, Gregorutti, Secoli, Zerboni, Macchi, Dorci, Barini, Cardoso e Wiesenfeld. Nel singolo under 23 ha vinto l'oro la lignanese Alice Gnatta, mentre il titolo del singolo under 17 è andato al San Giorgino Josef Marvucic, che ha dominato la sua gara. L'argento è stato vinto nel singolo ragazze da Noemi De Vincenzi della Nettuno e nel singolo esordienti da Pruiticiarello della Canoa San Giorgio. Infine il bronzo è stato conquistato dal 4 senza ragazzi della Timavo con Zennaro, Pellizzari, Gonne e Serli, dal doppio ragazzi della Pullino con Fortunate Oswald e nel singolo Under 23 da Marco Dri della San Giorgio. Risultati che mostrano l'ottimo stato di salute di un movimento che fa capo a due diverse federazioni. Le rappresenta entrambe la Canoa San Giorgio, al cui presidente Luca Scaini chiediamo intanto un profilo di Federico Zanutta, il neocampione europeo nel K2. Questo ragazzo molto determinato, si stava allenando già da parecchio tempo, non è che un risultato così lo raccogli in poco tempo. L'allenatore Paolo Scrastolo, che lo segue ogni giorno, e per noi, per tutta la società, è stato un grandissimo orgoglio, una grandissima soddisfazione. È il vostro atleta di punta in questo momento, dove può arrivare? Speriamo alle Olimpiadi. È ancora giovane, però ha tanta voglia di fare ed è molto determinato. Speriamo che continui. Un risultato così sicuramente può fare da traino per tutto un movimento e in generale per la vostra società, anche nel canottaggio, come abbiamo visto dal risultato di Marvucic. Noi abbiamo più di 100 atleti e quindi diventano un po' degli idoli per i nostri piccolini, no? Quindi non vedo l'ora che tornino a casa, dove tutti i nostri gli faranno una festa. In termini di sacrifici, cosa significa remare? Non esiste un giorno di vacanza, forse qualche domenica, ma il resto questi ragazzi sono ogni giorno sulla barca, con la pagaia o con il remo in mano, ogni giorno, e studiano, vanno a scuola e tutto quanto, li impegnano tutti, però loro sono ogni giorno in società, dal lunedì al sabato e spesso anche la domenica, se no non porti a casa risultati. Atletica leggera e campionati italiani assoluti di Rieti si sono chiusi con un bilancio al di sotto delle attese per i colori regionali. Dopo l'argento di Enrico Saccomano della Libertas Udine nel lancio del disco con il nuovo primato regionale a 60 metri a un centimetro dall'oro, ieri sono arrivati i titoli del triestino Max Mandusic nel salto con l'asta 5,50 metri e di Elisa Maria Di Lazzaro, triestina dei Carabinieri, nei 100 metri ostacoli in 13.01 davanti alla concittadina Nicla Mosetti, che con 13.12 ha firmato il nuovo personale. Argento anche per Sinta Iovissa dell'Atletica Bruniera, chiuso i 1.500 metri alle spalle di Ludovica Cavalli. Qualche delusione per il triestino Simone Biasutti, quarto nel triplo con una misura lontana dalle sue migliori, e appena fuori dal podio anche la friulana Giorgia Bellinazzi nei 200 metri, sui quali tuttavia ha stabilito il nuovo record regionale assoluto in 23.55. Quarto posto infine nel triplo per la goriziana Deborah Tripodi. Passiamo al basket. A Trieste il rimpianto per la partita persa dagli azzurri contro la nazionale slovena è andato di pari passo per l'emozione di un evento che da tanto non si vedeva. Quasi 7.000 le presenze sugli spalti, di cui la maggior parte da oltrefrontiera, tutti uniti dalla passione per il canestro e dal tifo per i campioni di oggi come Doncic e di ieri come il neo coach azzurro Pozzecco. Certo, l'esordio in panchina di Pozzecco proprio a Trieste, il ritorno a casa da campione di Tonut e quello in nazionale slovena di Goran Dragic. Ma l'amichevole di ieri tra Italia e Slovenia aveva un'attrazione sola: Luka Doncic, uno dei migliori giocatori al mondo, uno di quelli che fa canestre incredibili ogni sera nel campionato NBA, dove si è meritato un contratto quinquennale da 212 milioni di dollari complessivi, circa 42 all'anno. La sua maglia, indifferentemente se quella della nazionale o dei Dallas Mavericks, al Pala Trieste era sulle spalle di tutti, bambini, giovani, meno giovani, sia sloveni che italiani. Un giocatore che unisce. Da dove sei arrivato? A Treviso. Esclusivamente per Luka Doncic? Solo per lui. Questa maglia, chi è il tuo giocatore preferito? Doncic, perché mi piace, è bravissimo come tiratore, come palleggiatore, è bravo a fare i passaggi e mi sta simpatico. È contenta di aver visto Luka Doncic dal vivo? Sì, come no, eccolo. È la prima volta? Prima volta in vivo. La prestazione non è stata memorabile. Appesantito, Luka Magic ha cercato di evitare infortuni, ma ha comunque segnato 12 punti nell'agile successo dei suoi. I tifosi però hanno gradito lo stesso. Sei soddisfatta di come ha giocato Doncic? Ma diciamo di sì, dai. Comunque vederlo giocare è uno spettacolo per tutta la città, per tutti gli amanti del basket. Diciamo che ha tirato un po' i remi in barca, però si può capire, d'altronde è un campione così. Alla fine lo vedi anche se gioca con le ciabatte, fa quello che vuole. Tra le centinaia di maglie con il 77, però, anche una vintage in onore del nuovo selezionatore azzurro. Sono di Varese, mi ha trasmesso la passione mio papà, che l'ha visto giocare, ha visto vincere lo scudetto e è un mio idolo. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre più numerosi e complessi gli adempimenti fiscali delle società sportive dilettantistiche che devono adeguarsi alle nuove normative. Il Comitato Regionale del CONI ha organizzato a Udine per questa sera alle 18 nell'auditorium dello Stadio Friuli un incontro gratuito durante il quale saranno illustrati i punti sostanziali per la fiscalità delle società sportive dilettantistiche. Il rapporto tra il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la legge del 91 sulle agevolazioni fiscali, le novità fiscali dell'ultimo triennio, la recente giurisprudenza tributaria sulle sponsorizzazioni e l'ordinanza della Corte di Cassazione del 2020 sul nuovo canone unico patrimoniale. Tutto ciò naturalmente con l'ausilio di esperti. Alle 7.51 apriamo la rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura del Messaggero Veneto è dedicata all'uso della mascherina nei luoghi di lavoro privati, il cui obbligo è in scadenza a fine mese e che sarà deciso poi un eventuale rinnovo nella riunione odierna che è stata organizzata tra imprese, sindacati e governo. Si leggono poi i titoli sugli esiti delle amministrative, a cui sono dedicate anche le fotonotizie, oltre a un'intervista a Patuanelli, al ministro Patuanelli, che per ora scarta l'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della regione. In tema ambiente, un reportage sull'avvistamento di un secondo orso, oltre che di un gatto selvatico e di puzzole, in Val Tramontina e in Carso, avvistamenti dovuti anche ai cambiamenti climatici. Per il calcio la ricerca di un difensore per l'Udinese e poi le vittorie del canuista Zanutta, di cui vi abbiamo appena dato conto. La cronaca dell'edizione di Udine informa sul secondo lancio in 24 ore di una bottiglia incendiaria contro un'auto in via Mantova che ha distrutto il veicolo. Un altro servizio, quello che registra l'aumento del 15% delle compravendite immobiliari cittadine. L'edizione di Pordenone invece fa un prospetto dei prossimi pensionamenti dei medici di famiglia entro il 2025, prevedendone la difficoltà di sostituzione. Il Piccolo apre l'edizione di Trieste con il turismo, con l'identikit di chi sceglie la città e i suoi dintorni, ma il titolo principale è sulla multa di 2.000 euro con cui la Capitaneria di Porto ha sanzionato un tuffo al porticciolo del Ceda, Strabarcole Miramare, zona in cui la balneazione è vietata come in tutti i porticcioli. Multa data al nonno per il tuffo del nipotino. Siamo più o meno nel punto da cui si fa il tradizionale tuffo di Capodanno e viene da chiedersi se chi lo ha fatto per anni davanti alle telecamere sia sanzionabile a posteriori. In evidenza naturalmente c'è la pagina elettorale che domina la prima pagina dell'edizione di Gorizia con la conferma di Ziberna. La rimonta di Fasiolo riesce solo a metà, scrive il Piccolo. Tra gli approfondimenti la lunga marcia del sindaco per conquistare il secondo mandato, l'intervista con l'avversaria, la composizione del nuovo consiglio comunale, mai così omogeneo per il centrodestra, scrive il quotidiano. Apertura e altri titoli anche di analisi sulle elezioni amministrative sono presenti sul Gazzettino nell'edizione del Friuli. E poi si legge la cronaca con l'avvio dei lavori nelle scuole di Via Dante per allestire una cucina che serva alla mensa studentesca. Altro servizio, quello sul piano regionale per la riduzione del 10% dei cormorani a tutela di Trota Marmorata e Temolo, a cui sono dedicati progetti di ripopolamento. Per gli spettacoli una carrellata degli appuntamenti della rassegna Assunse Europe dedicata alle lingue minoritarie. E proprio Assunse Europe sarà dedicata questa mattina alla prima parte dei programmi di Radio Rai, con il programma in friulano alle 11.10, poi alle 11.20 circa Peter Pan, i bambini ci guardano, il centro della puntata, il ritorno del progetto Overnight a Trieste, un progetto dedicato ai ragazzi della Valdegano. Mezzogiorno, l'ultimo appuntamento stagionale con Di Sport, a 40 anni dal titolo mondiale vinto in Spagna, l'ospite sarà Dino Zoff e con lui l'autore della sua biografia, Giuseppe Manfredi. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia, Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. 7.55, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo più tardi. Grazie, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.